La dimora la farai di 10 teli di bisso ritorto, porpora viola, porpora rossa e scarlatto. Li farai ornati con un'opera artistica di cherubini. La lunghezza di un telo, 28 cubiti. La larghezza, 4 cubiti per telo, una misura unica per tutti i teli. 5 teli saranno uniti l'uno all'altro e gli altri 5 teli saranno uniti l'uno all'altro. Farai dei cordoni di porpora viola sull'orlo del primo telo, all'estremità delle giunzioni, e così farai all'orlo del telo che è all'estremità della seconda giunzione. Farai 50 cordoni al primo telo e farai 50 cordoni all'estremità del telo che è nella seconda giunzione, mentre i cordoni corrisponderanno l'uno all'altro. Farai 50 fibbie d'oro e unirai i teli l'uno all'altro con le fibbie. La dimora sarà un tutt'uno. Farai dei teli in pelo di capra per la tenda sopra la dimora. Ne farai 11. La lunghezza di un telo, 30 cubiti. La larghezza, 4 cubiti per telo. Una misura unica per gli 11 teli. Unirai 5 teli da una parte e 6 teli dall'altra e ripiegherai il sesto telo sulla parte anteriore della tenda. Farai 50 cordoni sull'orlo del primo telo che è all'estremità della giunzione e 50 cordoni sull'orlo del telo della seconda giunzione. Farai 50 fibbie di bronzo e introdurrai le fibbie nei cordoni e unirai la tenda. Sarà un tutt'uno. La parte pendente che avanza dei teli della tenda, cioè la metà del telo che avanza, penderà sulla parte posteriore della dimora. Sia il cubito da una parte che il cubito dall'altra che avanza della lunghezza dei teli della tenda saranno pendenti ai lati della dimora per coprirla da una parte e dall'altra. Farai una copertura alla tenda di pelli di montone tinte di rosso e una copertura di pelli conciate al di sopra. Farai per la dimora le assi in legno d'acacia che restino in piedi. La lunghezza di un asse sarà di 10 cubiti e la larghezza di un asse di un cubito e mezzo. Ogni asse avrà 2 sostegni appaiati uno all'altro. Così farai per tutte le assi della dimora. Farai le assi per la dimora, 20 assi verso sud a mezzogiorno. Farai 40 basi d'argento sotto le 20 assi. 2 basi sotto un asse per i suoi 2 sostegni e 2 basi sotto l'altra asse per i suoi 2 sostegni. Per il secondo lato della dimora, verso nord, 20 assi. E anche per loro 40 basi d'argento, 2 basi sotto un asse e 2 sotto l'altra asse. Per la parte posteriore della dimora, verso ovest, farai 6 assi. Farai 2 assi per gli angoli della dimora nella parte posteriore. Saranno appaiate perfettamente in basso e saranno perfettamente insieme in cima al primo anello. Così sarà per ambedue. Saranno ai 2 angoli. Ci saranno 8 assi e le loro basi d'argento saranno 16. 2 basi sotto un asse e 2 sotto un'altra asse. Farai delle traverse in legno d'acacia. 5 per le assi di un lato della dimora. 5 traverse per le assi del secondo lato della dimora. E 5 traverse per le assi del lato posteriore della dimora, verso occidente. La traversa di centro, in mezzo alle assi, attraverserà da un'estremità all'altra. Ricoprirai d'oro le assi e farai d'oro i loro anelli che riceveranno le traverse, e ricoprirai d'oro le traverse. Innalzerai la dimora secondo il modo che ti è stato mostrato sul monte. Farai un velo di porpora viola, di porpora rossa, di scarlatto e di bisso ritorto. Sarà ornato artisticamente di cherubini. Lo porrai su quattro colonne d'acacia ricoperte d'oro, con gli uncini d'oro alle quattro basi d'argento. Porrai il velo sotto le fibbie, e là, all'interno del velo, introdurrai l'arca della testimonianza. Il velo sarà per voi la separazione tra il santo e il santo dei santi. Porrai il propiziatorio sull'arca della testimonianza nel santo dei santi. Porrai la tavola fuori del velo e il candelabro in faccia alla tavola sul lato della dimora a meridione. Porrai la tavola sul lato settentrionale. Farai all'ingresso della tenda una cortina di porpora viola, porpora rossa, scarlatto e bisso ritorto con lavoro di ricamatore. Farai per la cortina cinque colonne d'acacia, le rivestirai d'oro. I loro uncini saranno d'oro e fonderai per esse cinque basi di bronzo.